Cano, che succede? È la stampa, Belletta, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. La vigilia dell'evento impossibile scorre con lo sgocciolio esasperante di cifre, previsioni e scenari che tendono i nervi di una nazione insieme esausta e carica di adrenalina, come la sera prima dell'esame. Ci sono ancora 18 milioni e mezzo di indecisi. Tutto resta possibile. Dagli studi di Radio 24 un saluto da Bruno Perini, in regia con noi Carmelo Lauricella. Beh, avete capito, stiamo parlando dell'argomento, del tema che terrà in sospeso, con il fiato sospeso, i mezzi di comunicazione di tutto il mondo, le elezioni degli Stati Uniti. Anche, l'avete già sentito, ve lo ripeto perché è un evento eccezionale per tutti, anche per noi. Radio 24 dedicherà una lunga diretta all'esito delle elezioni americane, servizi dei nostri inviati, approfondimenti, testimonianze. Inizierà alle 18.30 la Zanzara con Luca Telese, che sarà monografica da questo punto di vista, ovviamente. Poi alle 21 lo speciale con Gigi Donelli, Stefano Pistolini, Sebastiano Barisoni, Simone Spezia, Daniele Bianchessi, il nostro direttore Gianfranco Fabio. Alle 9 di domani il consueto appuntamento con Viva Voce di Alessandro Milan e oltre agli aggiornamenti stamane la trasmissione condotta dal direttore Dietro la Notizia avrà come ospite Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore ed esperto di esteri, che ci parlerà ancora e sempre dell'argomento che nelle prossime ore dominerà davvero la comunicazione mondiale, i mezzi di comunicazione di tutto il mondo. E vi leggevo prima Vittorio Zucconi sul quotidiano La Repubblica, lui dice appunto: tutto resta possibile. Siamo a 24 ore dal giorno che può cambiare la storia dell'America, gridava Barack Obama ieri mattina. Ho avuto ragione nello scommettere sugli istinti migliori della nostra nazione, mentre McCain raccoglieva in Virginia la folla più numerosa che mai avesse visto e la palma apriva un comizio nel Missouri con l'inno nazionale cantato da un interprete disastrosamente stonato, segno sicuro che le truppe opposte si stanno raccogliendo attorno alle proprie bandiere prima dello scontro. Ma poiché anche i buoni istinti vanno incoraggiati, Obama ha occupato spazio nel programma televisivo più seguito della settimana, la diretta del football lunedì sera, con un'intervista, così come McCain si è esibito in uno sketch fin troppo autoironico e umiliante, votate per questo vecchio nonno alla sua ultima occasione, nello show satirico del sabato sera. Nessuno dei due, né Obama né McCain, ha più niente di nuovo da dire, e gli sgambetti dell'ultima ora, la zia keniana di Barack sorpresa a vivere senza permesso di soggiorno a Boston, o la scoperta che il democratico intende tassare a morte le vecchie e puzzolenti centrali elettriche a carbone che inquinano l'atmosfera, cosa che anche McCain ha detto di voler fare, scorrono l'indifferenza di un elettorato che ne ha sentite troppe in questa campagna elettorale per essere ancora vulnerabili a questi petardi. La vigilia è il momento della pancia, non della testa. Quello in cui addirittura il 7% degli elettori decidono per chi votare, per impulso, per stanchezza, per reazioni istintive, mentre fanno la fila davanti al seggio. Ecco, questa è l'immagine che viene data Vittorio Zucconi, inviato della Repubblica negli Stati Uniti, a proposito di c'è anche un Federico Rampini che scrive da San Francisco: la speranza segreta dei democratici è che stasera gli elettori americani non segnino solo la fine della tragica era Bush, ma qualcosa di più profondo e durevole. Realignment è la parola magica a cui tanti pensano in queste ore di trepidazione. Questo scrive Rampini, e ancora dice: letteralmente si traduce con riallineamento, indica una ridislocazione strutturale del paesaggio politico in cambio di fase, una svolta storica. La personalità di Obama da sola non basta, è l'impatto della crisi economica più grave dal 29 a far sperare che questo sia l'anno di un nuovo riallineamento. allineamento. Dunque, scrive, dice Rampini, insomma, non si tratta solo del personaggio, ma proprio di un problema di come ricollocare nella geografia politica gli Stati Uniti. Ci sono solo due precedenti nella storia americana del Novecento, con Franklin Roosevelt nel 32 in favore dei democratici, con Ronald Reagan nell'80 a vantaggio della destra repubblicana. In entrambi i casi vi fu non soltanto un netto spostamento di rapporti di forza tra i due partiti, ma il passaggio duraturo di fasce dell'opinione pubblica da uno schieramento all'altro e l'emerge di nuovi protagonisti della partecipazione politica. Si tratterà di vedere se davvero siamo in questo caso con Obama. I giornali oggi, come voi immaginate, sono pieni di questo. Io volevo solo adesso però dislocare altre notizie di passaggio. Intanto, sempre rimanendo sul tema delle elezioni statunitense, è degna di segnalazione la polemica di un grande regista, Oliver Stone, regista americano, che scrive una lettera: caro Mr. Bush, che sollievo, lei non sarà più presidente. Gentile signor Bush, mentre cerco di scrivere questa lettera mi sento come lei a una delle sue leggendarie conferenze stampa. Non so cosa dire, se non quello che è ovvio: provo un enorme senso di sollievo in vista del fatto che lei non sarà più presidente degli Stati Uniti. L'America è una nazione che concede una terza e anche una quarta occasione, ma per fortuna non è così nel suo caso. Qualche anno fa non sarei nemmeno stato in grado di comporre una simile missiva. Quando lei lanciò la guerra in Iraq, ne fui estremamente turbato, specialmente se si considera che sono un veterano del Vietnam, perché vedevo ripetersi la storia. Una delle ragioni per cui feci il film Alexander era per potermene andare da questo paese e allontanarmi dalla sua politica, ma nel frattempo ho imparato a mettere da parte i miei sentimenti, per quanto spiacevoli, e così sono stato in grado di mettermi nei suoi panni e fare un film su di lei, e ci creda o no, sono riuscito a esorcizzare qualche demone. Ma questo ha cambiato la mia opinione su di lei? Senz'altro no, e conclude il regista americano, vorrei vederla dietro il banco degli imputati. Questo sul quotidiano della Repubblica, una lettera di Oliver Stone. Poi abbiamo invece una intervista d'altro genere a Corrado Guzzanti, il comico, che dice una cosa, diciamo, che farà discutere. I politici ci permettono tutto, non spostiamo voti. Anche Berlusconi ha capito, dice Corrado Guzzanti, che non deve avere paura delle parodie. Con la satira non si spostano voti. Corrado Guzzanti torna in TV e parla dei rapporti tra comici e politici che non temono più le imitazioni. E infatti in TV proliferano le parodie di ministri e parlamentari, da Brunetta a Carfagna, dalla Gelmini a Capezzone, e le polemiche del passato Guzzanti le smorse. I comici non devono avere scopi politici, rischiano l'ambiguità. Ecco, questa è una presa di posizione che probabilmente potrebbe anche essere rivolta a sua sorella, che invece si è impegnata, oltre che come comica, anche politicamente negli ultimi anni. Poi abbiamo ancora Giuseppe D'Avanzo, che racconta, fa parlare i ragazzini del napoletano, dove la camorra ha colpito. Eravamo seduti sulla panchina davanti al circoletto di Salvatore, li abbiamo visti arrivare, io in verità non li ho nemmeno visti, gli altri li hanno visti arrivare, non io, io ho soltanto sentito il rumore di un paio di motori pesanti, mi sono girato in quella direzione, avevano i caschi integrali e già mi sono allarmato. Dalle nostre parti il casco non si porta, non è buono portarlo, qui al rione Berlingeri vogliamo stare tranquilli e vedere la faccia di chi passa. Se ti copri la faccia può voler dire che hai cattive intenzioni, che non sei buono. Questione di secondi, che dico, attimi, ho visto uno di quelli tirare fuori la pistola dalla cintura dietro la schiena, mi sembrava lunga di canna come un fucile, non finiva mai di uscire, sono scappato dentro il circoletto insieme agli altri. Questo è un pezzo del racconto che ha visto poi quel tentativo di strage nel napoletano. Il giorno più lungo della Nuova America, così Il Sole 24 Ore apre la prima pagina. Con una mobilitazione senza precedenti, gli americani scelgono oggi il presidente per i prossimi 4 anni. L'ultimo sondaggio Gallup ha confermato il netto vantaggio del candidato democratico Barack Obama, 47 anni, indicato in 11 punti sul repubblicano John McCain, 72 anni. ma l'alta affluenza alle urne, attesa a livelli record, potrebbe anche far emergere un voto diverso da quello previsto dai sondaggi. E questo è il Sole 24 Ore. Il Mario Platero, che parla dell'ora della verità, fa un commento, però firma anche un servizio. A pagina 7, l'America può ripartire. Kerry Kennedy con Obama sarebbe anche la vittoria di mio padre. La torcia dei Kennedy per Barack Obama avanza in Pennsylvania, uno degli stati che oggi potrebbe decidere le elezioni americane. La porta Kerry, figlia di Robert Kennedy, il padre ideologico dei diritti civili in America, ucciso 40 anni fa quando il paese rischiava una nuova guerra civile. La porta con le sue figlie, cara Maria, Michela, perché ricordino il nonno e perché con la conquista di questa contea repubblicana, Chester County, 500.000 abitanti, questa notte a Grand Park a Chicago, dove il Partito Democratico si disintegrò nel 68, si possa celebrare non solo la vittoria della presidenza, ma la rifondazione dello stesso partito. Del resto, David Axelrod, capo della campagna di Obama, non ne fa mistero. Vorremmo avere un mandato chiaro. Vorremmo sfondare al Sud, ha detto ieri, restituire ai democratici i figli e le figlie che l'avevano abbandonato. Questo il Sole 24 Ore, il quotidiano diretto da Ferruccio De Bortoli, mette per una volta, insomma, ha dato ovviamente peso alla notizia politica più importante, ma subito sotto abbiamo il titolo dell'economia sulla crisi. L'Europa si ferma, Italia in recessione. A ottobre oltre 14 miliardi di deficit in più. Euribor e Dibor ai livelli pre-crack, Lehman. L'ombra della stagnazione si allunga sull'Eurozona, promettendo per il 2009 una crescita del PIL dello 0,1% dopo il più 1,2% di quest'anno. Mentre per l'Italia il doppio trimestre di crescita negativa del PIL ha già confermato per quest'anno la situazione tecnica di recessione. Ieri il commissario per gli affari economici della UE, Joaquín Almunia, dopo aver illustrato le nuove stime della Commissione, ha parlato di orizzonte economico cupo, mentre il ministro Giulio Tremonti ha detto che l'Italia è allineata a Francia e Germania. Intanto peggiorano i conti pubblici. In ottobre il fabbisogno cresce di 14,5 miliardi e alla vigilia della decisione sui tassi della BCE il Libor a tre mesi è sceso al 2,85%, dal 3,02% di venerdì, il livello più basso dal crack della Lehman Brothers. In netta discesa anche l'Euribor, al 4,73%, minimo da aprile. Ecco, questo il Sole 24 Ore, che ci segnala inoltre che a ottobre in caduta le vendite di auto, prime chiusure di impianti. A ottobre meno 18,9% in Italia, 40,2% in Spagna, sono i primi segni della recessione evidentemente. La crisi economica tocca il settore auto con impianti fermi in mezza Europa. Mirafiori chiuderà per due settimane, sospesa anche la produzione di BMW e GM. In ottobre il mercato in Italia ha perso il 18,9%, peggio della Francia, meno 7,3%, ma meglio della Spagna, meno 40%. Beh, la Spagna è sul settore auto, è conciata, e non solo su quello, dalle cronache che abbiamo, piuttosto male. Questo leggiamo sul Sole 24 Ore, ma se noi vogliamo tornare al tema forte, il tema delle elezioni americane, intanto Paolo Valentino sul Corriere della Sera firma un editoriale dal titolo L'ultimo diaframma. Questa sera il Partito Democratico Americano torna sul luogo del delitto, 40 anni dopo la fine della coalizione del New Deal. Al Grand Park, nel cuore di Chicago, Barack Obama spera di celebrare la vittoria che i sondaggi, gli osservatori politici e l'umore generale del paese gli predicono ormai da settimane. C'è una riflessione, dice, c'è un ultimo diaframma che è, potrebbe essere quello del colore della pelle. Qui però dice l'implosione dei democratici aprì la strada al successo della rivoluzione conservatrice, che da Nixon in poi, con la parentesi accidentale di Jimmy Carter e quella minoritaria di Bill Clinton, ha guidato l'America per giungere al suo probabile capolinea con George Bush e con il più grave disastro finanziario ed economico dalla Grande Depressione. Questo scrive Paolo Valentino. All'epoca dei fatti Barack Obama aveva 7 anni, ma la scelta di Graham Park per una campagna come la sua, sempre più molto attenta ai simbolismi, segnala l'ansia del nuovo inizio, l'ambizione del candidato democratico di forgiare proprio nel luogo della sconfitta una nuova coalizione vincente intorno al Vangelo del cambiamento, post ideologico e post razziale. E questo è il Corriere della Sera con Paolo Valentino. Il Corriere della Sera però dà anche molto spazio a ciò che sta avvenendo negli atenei italiani. È importante, l'avete già sentito dal GR, la protesta al Politecnico a Roma, contestato Bocchino. Importante, dicevo, perché anche da aree, diciamo, vicine al governo viene una critica al taglio ai finanziamenti. Vediamo cosa scrive Anna Chiara Sacchi sul Corriere della Sera. Tagli all'università, l'attacco arriva da nord, dal Politecnico di Milano, con un doppio fuoco incrociato. Primo a fondo del rettore Giulio Baglio, che toga e tocco per inaugurare il nuovo anno accademico, parla di delusione e rabbia nel mondo accademico. Aggiunge che ridurre il finanziamento pubblico significa far morire gli atenei, fino a presagire vorrà dire che chiuderemo. Anche il presidente lombardo Roberto Formigoni, ecco una voce, come dire, vicina, ovviamente, anzi appartenente al PDL, intervenendo dallo stesso palco, non è tenero, invita gli alleati di governo a un ripensamento sulla legge 133 e definisce inaccettabili i tagli indifferenziati. Il professore ingegnere e il governatore Cellino, il tecnico e il politico, d'accordo, le università vanno salvate. E dice, Formigoni dice in particolare, è necessario razionalizzare, ma non si può tagliare allo stesso modo nelle università in cui ci sono sprechi e deficit e in quelle che riescono a far fronte alle spese. Ecco, questa è la linea, diciamo, che poi è la linea del federalismo che dovrebbe essere mantenuta anche nei confronti della politica, dice Formigoni. Tor Vergata, insulti e sputi al PDL Bocchino, il vice capogruppo alla Camera, brutto clima, nessuna solidarietà dalla sinistra democratica. C'erano 100 invasati intorno a me che gridavano di tutto. Il tragitto dall'aula al cortile dove c'era una macchina che mi aspettava è stato un inferno. Tra insulti, cori, sputi, diciamo che mi sono sentito come può sentirsi il presidente della Lazio in mezzo a 100 romanisti. Ora provo a scherzarci su Italo Bocchino, 41 anni, vicepresidente dei deputati del PDL, ma ieri pomeriggio alla facoltà di lettere dell'Università Romana di Tor Vergata è stato contestato duramente dal collettivo Lavoro in Corso. Questo il sempre il Corriere della Sera. Poi vi è, il Corriere richiama anche una storia di una donna in Iran, Guido Olimpio, scrive Esha, 28 anni, cittadina americana e iraniana, militante per i diritti delle donne, è stata fermata per un controllo stradale a Teheran. Agenti in borghese l'hanno accusata di una violazione del codice e l'hanno poi portata nel carcere di Evin, gestita dalla Vevak, polizia segreta. Da allora è in isolamento. Sì, allarme per la situazione di questa donna. Questo il Corriere della Sera. Se anche qui vi dicevo, non tutti sono per Obama, Barack Obama, perché per esempio il Foglio propone un titolo, ed è Giuliano Ferrara che torna a scrivere con un lungo articolo, viene firma con il suo elefantino rosso, diciamo fa una valutazione più che altro di quello che è stata l'esperienza Bush. Festa malinconica per il caro amico Bush, il paradosso misterioso di un presidente che ha vinto tanto e perde altrettanto. Il paradosso dei paradossi è che Bush ha vinto le sfide politiche che ha impostato e quelle ricevute dalla storia, non solo nella risposta all'11 settembre. Bush non si è limitato a vincere due guerre, a proteggere l'America, a mandare in pensione gli europei che l'avevano braccato a braccetto delle masse pacifiste come Chirac e Schröder, ristabilendo relazioni politiche solide con gli alleati, lasciando al suo isolamento la diserzione di Zapatero. Non ha soltanto bloccato la nuova Monaco occidentale, realizzando il disarmo di Gheddafi e di Kim Jong II e le condizioni di un intervento drastico per impedire la nascita di un Iran nucleare. fronteggiando e mettendo nell'angolo fino a che è stato possibile con un linguaggio di amicizia la nervosa e autoritaria Russia di Putin. Nel mondo occidentale, pian piano, fin dai tempi di Truman e dei primi Gallup, si è introdotto e insediato stabilmente un nuovo potere sottilmente manipolativo, di tipo democratico e statistico. Parliamo del circuito dei sondaggi, del cosiddetto sistema del mainstream media, ovvero il dominio delle comunicazioni di massa, della TV e del web in particolare. L'opinione pubblica sondata, presuntiva, è un'altra cosa rispetto al vecchio plebiscito di ogni giorno, che era l'opinione nazionale e nazionalista ai tempi della Prima Guerra Mondiale. Questa opinione non regge un presidente o un premier di guerra, sceglie per indole l'isolazionismo e l'appeasement, dimentica oggi il significato delle guerre che ha voluto appena ieri. Bush, di questa opinione presuntiva dei sondaggi, è la vittima sacrificale. E solo così, dicono alcuni, si spiega il rovesciamento logico di un presidente che vince tanto e perde altrettanto. Questo, ma se vince Barack saranno guai. E il Maria Giovanna Maglia sul quotidiano Il Giornale, per esempio, è un'altra osservatrice che spera che Obama non vinca. Scrive infatti in conclusione di una lunga riflessione. Infine, dice Maria Giovanna Maglie, nell'augurarmi da cronista ventennale di politica internazionale che non vinca Barack Obama, oppure nonostante non sia né un cretino né comunista, ma solo un populista poco esperto e poco capace, saranno guai per molti. Mi domando che cosa la visione di Barack Obama c'entri con la riforma della scuola dell'attuale ministro della pubblica istruzione. Se è così, devo andare a rileggermi quella riforma, preoccupandomi. Il riferimento è al fatto che il ministro della pubblica istruzione si è pronunciata apertamente per Barack Obama, e quindi Maria Giovanna Maglia dice: guardate che state sbagliando. Il giornale pubblica anche l'apertura del giornale: sciopero, la Caporetto del sindacato, sorpresa nel pubblico impiego, 9 statali su 10 si ribellano a CGIL e UIL e vanno a lavorare. All'Italia si rompe il fronte del no, le hostess lasciano soli i piloti. Ecco la vera posta in palio. Mario Giordano, direttore del giornale, dice: la lezione che viene dalla scuola, abbiamo certo assurde le posizioni prese dai. Siamo convinti che il maestro unico sia un bene, che sulla scuola non siano state raccontate troppe balle in queste settimane, terrorizzando le mamme e strumentalizzando gli studenti, con l'unico obiettivo di difendere interessi di categoria o peggio di partito. Abbiamo denunciato tutto ciò, dice, ma proprio per questo oggi ci sembra giusto dire con chiarezza che anche per quanto riguarda il governo qualcosa non ha funzionato. E ci sono una serie di, un elenco da parte di Giordano, primo fra tutti la comunicazione, che non ha funzionato nella politica e nella gestione del caso scuola. Adesso Libero apre con futuro nero, ma va. I sondaggi favoriscono Obama, ma nel segreto dell'urna non vale il politicamente corretto. Fino a 2 secoli fa negli USA la schiavitù era legale. Ed è questo un ragionamento che fa Vittorio Feltri sul suo quotidiano, sul quotidiano da lui diretto, apportando, come dire, la tesi per cui Deo gratias, dice, oggi gli americani votano per darsi questo benedetto 44esimo presidente di cui si discute da oltre un anno e mezzo, anche alla trattoria Falcone di Ponteranica, dove spesso mentre ceno qualcuno si avvicina al mio tavolo, scusi se la disturbo intanto che mangia, ma cosa ne dice lei dell'Obama? Chi? Ma sì, quel nigger lì della Casa Bianca, ecco, dice, non se ne può più in Europa, in Italia, sta succedendo l'ira di Dio, ma i giornali, anche quelli locali, di norma impegnati a raccontare di vecchiette fulminate dal ferro da stiro o di feste della castagna, si occupano con passione degli USA. E il Vittorio Feltri dice che si può escludere prevalga in lui il sentimento poco nobile, poco estraneo all'americano medio, cioè l'incapacità di tracciare la croce sul nome del negro. Se l'elettore resisterà alla tentazione e voterà Obama, vorrà dire che l'America è già cambiata ancor prima sia entrata in funzione la nuova amministrazione. Viceversa, vincerà McCain. Non darei troppo retta ai sondaggi, perché c'è un particolare. Fino a 200 anni fa, 200 anni or sono, negli USA la schiavitù era legale. 2 secoli sono sufficienti a depurare l'anima? Questo si chiede Vittorio Feltri sul suo quotidiano. E Oscar Zannino invece, come dire, così piano piano comincia la ripresa. E questa è l'idea di Oscar Zannino in un servizio che compare a pagina 3. La ripresa comincerà dalla recessione. L'economia è ufficialmente negativa, ci resterà un bel po'. La via per uscire è la solita: meno tasse. Questa è la formula che viene proposta in una riflessione lunga di Oscar Zannino. Bilanci sull'amministrazione Bush, vi dicevo, alcuni giorni, quotidiani la fanno, il Manifesto per esempio, Rossana Rossanda, una delle fondatrici del Manifesto, scrive: questa crisi non sarà la fine del liberalismo, ma certo di quello che chiamiamo neoliberismo, teoria e pratica criminale lanciata da Milton Friedman e i suoi Chicago Boys, basata sullo sganciamento del mercato del lavoro da ogni diritto, della finanza da qualsiasi economia reale, intendendo per questa la produzione di una merce non fittizia e prima ancora nel 71 dalla fine dello scambio fisso del dollaro, che era ancora la moneta di riferimento. Dalla deregulation del lavoro è venuta in crescendo fragilità del lavoro dipendente, con il risultato che salari e pensioni rappresentano ora 10 punti in meno del reddito nazionale. E parte da qui Rossana Rossanda per arrivare a dire che, insomma, con il titolo è Il mondo in rosso, ma per dire che la vittoria di Obama potrebbe essere salutare non solo per il mondo intero, insomma, ecco, questo basta, non ci resta che sperare in Obama, sulle cui intenzioni in merito a nulla sappiamo, ma almeno usciamo dalla spensieratezza dominante. Poche ore fa il TG1 Economia ha osservato che, se è vera la prognosi di Almunia di una crescita zero, cominceranno problemi per l'occupazione, cominceranno. Questo Rossana Rossanda sul Manifesto. Il Riformista è esplicito, più esplicito così si muore: speriamo che sia Obama. Questo è il titolo di apertura. C'è un articolo di Antonio Polito, ha scritto ieri Il Paese: Obama fa appello al voto riformista. Eccoci qua, presenti, Il Riformista tifa per Obama. Non da oggi, a dire il vero. Da quando sembrava un nano per giunta nero di fronte al gigante Hillary. Speriamo che sia Obama, domani mattina speriamo che sia Obama. Questo è l'appello, quasi un'evocazione del direttore Antonio Polito sul suo giornale. Che cosa c'è di riformista in Obama? Me lo chiedono tanti lettori e amici, Alberto Mingardi a pagina 8 per esempio. Essi dicono, a parte il fatto che è bello, giovane, moderatamente nero, figo senza essere fighetta, a parte il fatto che si muove come uno street dancer e parla come un rapper, che interpreta alla perfezione lo spirito del tempo e vola spina dal vento del secolo, che altro ci vede in Obama? Questi ragionamenti mi ricordano un vecchio film di Monty Python, Brian di Nazareth, in cui un leader rivoluzionario della Palestina ai tempi di Cristo incitava il suo popolo alla ribellione contro l'oppressore romano. Questo sul Riformista. La stampa rapidamente usa al voto l'ora degli spot killer, e poi un articolo interessante invece di Pietro Garibaldi per evitare una vera depressione, in cui Pietro Garibaldi cerca di proporre le formule contro una possibile depressione. E ancora, infine, l'Unità. Si vede George Bush che cammina su un tappeto rosso, e il titolo è: una cosa è certa, Bush se ne va. Oggi gli USA al voto, gli anni bui, negli articoli di Patrick McGrath e Ariel Dorfman. Patrick McGrath è autore e scrittore di letteratura. E con questa segnalazione, volevo solo segnalarvi sul Messaggero uno scritto di Giulio Tremonti che esalta l'intervento di Carlo Azeglio Ciampi e propone: Europa e USA promuovono una nuova Bretton Woods. Sì, questa è, secondo Giulio Tremonti, in un breve intervento sul Messaggero in prima pagina, la necessità strategica per uscire davvero dalla crisi. E con questa segnalazione io vi saluto, vi do appuntamento a domattina, e vi ricordo appunto la diretta speciale sulle elezioni statunitensi, che inizia praticamente da oggi pomeriggio alle 18:30 per tutto, fino a risultati conclusi. A domani, e grazie.